Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. 65 milioni di chili è una bella quantità di roba, non credete? Ne parliamo fra poco. Benvenuti a Mebius e ascoltiamo insieme i titoli di questa puntata. 65 milioni di chilogrammi. È questo il peso dei rifiuti elettronici prodotti in Italia lo scorso anno. Capiamo insieme perché è importante e conveniente riciclarli e smaltirli. Le atmosfere non sono per sempre, vanno e vengono, e anche quella della Terra cambierà drasticamente in un lontano futuro. Il cellulare universale non esiste, almeno così sembrerebbe facendo il giro del mondo per studiare gli usi e i costumi legati a questo strumento ormai insostituibile. I mitocondri non mentono, i toscani non sono etruschi, si chiude così una vecchia diatriba. Nel 1932 la vita di un piccolo gruppo di geniali scienziati che si erano incontrati nelle prestigiose università tedesche veniva travolta dall'avvento del nazismo. Iniziava la corsa verso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Che noi si sia circondati da apparecchiature elettroniche mi pare un dato di fatto acquisito. Che anche queste si trasformino in rifiuti, chissà perché, è cosa meno percepita. E c'è pure chi li raccoglie questi rifiuti invece. Ve ne parla Chiara Albicocco. Si chiamano RAE, cioè rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sono oltre 65 milioni i chili di questo tipo di materiale raccolti lo scorso anno, nel 2008. Come faccio ad avere un dato così preciso? Ebbene, perché è stato appena pubblicato il primo rapporto annuale su questo tipo di rifiuti. Ma quali materiali rientrano in questa categoria? Ci spiega tutto il direttore generale del centro di coordinamento di quei sistemi che si occupano del ritiro e dello smaltimento di questo tipo di rifiuti elettronici, è qui con noi questa sera Fabrizio Longoni. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, innanzitutto direi che è meglio specificare che cosa si intende per rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, questo tipo di rifiuti, che cosa rientra in questa categoria? Allora, rientrano tutti quegli apparecchi che funzionano collegati alla corrente elettrica, che sia essa la rete normale oppure le batterie che alimentano questi prodotti. Ecco, ci fa capire perché è importante innanzitutto raccogliere e riciclare questo tipo di rifiuti in maniera differenziata rispetto al resto? Ma per due motivi fondamentali. Il primo sicuramente è che tra questi apparecchi ve ne sono alcuni che possono inquinare l'ambiente, essendo essi rifiuti pericolosi. Il secondo motivo, altrettanto valido se vogliamo, è perché comunque sono costruiti con materiali che, se avviati correttamente al riciclo e al recupero, costituiscono una fonte sicura di recupero di materiali importanti. Ecco, nell'introduzione abbiamo detto che sono stati smaltiti 65 milioni di chili nel solo 2008. Direi che è un dato piuttosto importante che è uscito dal vostro rapporto annuale. Sì, è un dato importante, è un dato che comunque tiene conto soltanto dell'operatività del primo anno, che è stato un anno di partenza e di avvio del sistema, e che sicuramente sarà di gran lunga superato già da quest'anno, ma che costituisce un punto fermo come partenza, perché ha visto l'iscrizione di moltissime isole ecologiche durante tutto l'anno 2008, a partire dalle 22 iniziali del gennaio fino ad arrivare a 2.785 isole ecologiche distribuite in tutto il territorio italiano. Ecco, infatti capiamo bene come avviene la raccolta, come può avvenire la raccolta e lo smaltimento di questi rifiuti. Basta recarsi in queste piattaforme ecologiche e lasciare il rifiuto nell'area dedicata. Sì, allora... Poi ci pensate voi. Poi ci pensiamo noi, giustamente. Allora, la raccolta avviene tramite le isole ecologiche, che sono quei luoghi di raccolta che sono messi a disposizione dai comuni, direttamente dai comuni stessi o per mezzo delle società che raccolgono i rifiuti. Il cittadino può recarsi con il proprio bene presso l'isola ecologica presente nel suo comune e troverà ad accogliere questi rifiuti 5 diversi contenitori. Poiché questa tipologia di rifiuti è costituita da grandi quantità e differenti tipologie, viene in realtà poi suddivisa fin dalla raccolta in 5 diversi gruppi. Infatti prima dicevamo 65 milioni di chili, è ovvio che all'interno di questo peso ci sono frigoriferi, per intenderci lavatrici, ma anche lampadine. Certo, hanno chiaramente pesi e numeriche molto diverse. Il legislatore ha provveduto a suddividere, così come la catena operativa a valle del trattamento di questi rifiuti prevede, in 5 diversi gruppi, dove rientrano sia i frigoriferi o i condizionatori, quindi quegli apparecchi che possono contenere dei fluidi ozonolesivi, i grandi bianchi, quindi le grandi apparecchiature, lavatrici, lavastoviglie e quant'altro, oppure televisioni con i vari tipi di monitor, le sorgenti luminose, come dicevamo prima, o un raggruppamento molto più eterogeneo fatto da piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione senza le sorgenti luminose, telefonini, stampanti, computer e quant'altro, che vengono poi raccolti tutti assieme. I dati che emergono dal vostro rapporto annuale sono sicuramente importanti, ci diceva addirittura nel 2009 sicuramente più ottimisti, ma diciamo che ancora qualcosa si può fare, perché dal vostro rapporto emerge che c'è una forte disparità di comportamento tra una parte della nostra penisola, tra la parte nord e tra la parte del centro e tra la parte del sud, è corretto? Quali sono le regioni più riciclone e quelle in cui bisogna veramente lavorarci un po' di più? Allora, le regioni dal punto di vista della loro collocazione geografica hanno in realtà appartenenze a aree che hanno veramente delle velocità differenti. Il nord è sicuramente coperto fin dalla fase della raccolta da un numero maggiore di isole ecologiche, quindi la copertura territoriale è sicuramente maggiore. Pensiamo che nel nord il 92% della popolazione è servito da isole ecologiche messe a disposizione dai comuni. Questa percentuale scende al centro e arriva fino al sud delle isole al 52%. Questo è un elemento sicuro di miglioramento per il futuro, in cui potremo pensare che l'estensione della raccolta passi anche dalla presenza di un numero maggiore di isole ecologiche nelle aree del paese che oggi ne sono sprovviste. Quindi non è solo colpa del cittadino? No, in prima battuta direi proprio non solo colpa del cittadino. Okay. Poi vi sono altri dati importanti che fanno riferimento al fatto che laddove le isole ecologiche siano presenti, i cittadini sono anche più propensi a fare una raccolta e quindi a raccogliere in quantitativo maggiore. Andiamo da regioni come il Trentino Alto Adige e il Veneto, che hanno raccolte sicuramente consistenti nel pro capite più di 2 kg, più di 3 kg, a regioni come la Sicilia che hanno una media pro capite di 130 grammi. Per invogliare e invitare anche gli ascoltatori e le amministrazioni che ci stanno ascoltando a questo tipo di raccolta differenziata di questi materiali, ci dà un'idea di che beneficio a livello ambientale si potrebbe godere e soprattutto del risparmio energetico che ne deriverebbe? La raccolta garantisce il fatto che una consistente mole di materiali possano essere reimpiegati direttamente nei cicli produttivi. Stiamo parlando quindi sia di, diciamo, minori emissioni di CO2 derivanti dal fatto che non vengono prodotti nuovamente, quindi è necessario fare un ciclo produttivo così lungo per recuperare lo stesso materiale, e stiamo parlando anche di recuperi in chiave energetica, quindi di risparmio di energia trasferibile a tonnellate equivalenti di petrolio, sensibile perché chiaramente non è necessario utilizzare energia per dover recuperare direttamente del materiale. Per farvi un esempio, il primo anno di operatività del centro di coordinamento e quindi della conduzione del centro di coordinamento, che è il 2008, a fronte di una non raccolta, diciamo che ha portato un risparmio di CO2 equivalente a 100.000 automobili che percorrono 30.000 km ciascuna in un anno. Ecco, quindi diciamo un buon risparmio. Direi di sì. Benissimo, direttore, io la ringrazio e veramente spero di risentirla l'anno prossimo con dei dati ovviamente più ottimistici. Sono sicuro che troveremo dei dati ancora migliori. Non è un problema per domani, né per il 2010, quando dovrebbe esserci la ripresa, e se ci fosse anche questo di problema, beh, allora sarebbe il caso di arrabbiarsi, come si deve inoltrare formale protesta a chi di dovere. Sto parlando della lenta dispersione dell'atmosfera di un pianeta e quindi anche di quella nostra, della Terra. Lenta, ho detto. Ve ne parla Maurizio Melis. Le atmosfere non durano per sempre. Vengono, vanno, cambiano nell'arco di pochi miliardi, a volte anche pochi milioni di anni. Sia chiaro, Parliamo di mutamenti drastici, non paragonabili a quelli che causano il riscaldamento globale. Drastici come sostituire l'atmosfera di azoto e ossigeno della Terra con l'atmosfera di azoto e anidride carbonica di Venere, che grazie a ciò è un posticino con una temperatura di circa 400 gradi, dove piove acido solforico e sulle montagne nevica piombo. Pensate che la Terra sia immune da un tale destino? Beh, vi sbagliate, ma andiamo con ordine, prendendo spunto da un articolo di David Catling e Kevin Zahal apparso su Scientific American. Ci sono tre modi con cui un pianeta può perdere la sua atmosfera. Il più comune è dovuto a effetti termici. Negli strati più alti, dove l'atmosfera fronteggia il vuoto, alcune molecole vengono accelerate da urti casuali contro altre molecole fino alla velocità di fuga, poco meno di 11 km al secondo, riuscendo così ad abbandonare per sempre la Terra. A disperdersi per primi sono gli atomi più leggeri, che più facilmente raggiungono la velocità di fuga. L'idrogeno, non a caso, è presente in quantità solo nelle atmosfere dei giganti gassosi, dotati di una grande forza gravitazionale. La Terra lo ha perso circa 3 miliardi di anni fa. E questo è il primo meccanismo comune a tutti i pianeti. Un secondo meccanismo chiama invece in causa la presenza di ioni nell'alta atmosfera, cioè atomi privati degli elettroni e perciò carichi elettricamente. Ora, se il pianeta è dotato di un campo magnetico che li intrappola, come la Terra per esempio, per gli ioni è più difficile sfuggire, anche se sono noti diversi fenomeni secondari, diciamo, che permettono ad alcuni ioni di eludere questa specie di prigionia. Poi ci sono pianeti come Marte, i quali invece sono privi della protezione di un campo magnetico e per questi le cose vanno pure peggio, perché in tal caso il vento solare colpisce direttamente l'atmosfera, strappandola letteralmente via un po' alla volta. Infine, e siamo al terzo meccanismo, ci sono gli impatti meteorici, che scagliano nello spazio grandi masse di gas. Quello che causò, per esempio, l'estinzione dei dinosauri portò via più o meno un centomillesimo di tutta l'atmosfera terrestre. Ed eccoci tornati quindi al pianeta azzurro, alla Terra. Per ora sta bene, ma in futuro, per quanto un futuro remoto, le cose peggioreranno. Oggi la Terra perde circa 3 kg di idrogeno al secondo, che è pochissimo. L'idrogeno proviene dalla dissociazione dell'acqua, che però raramente raggiunge l'alta atmosfera perché di solito condensa prima di arrivarci e ricade sotto forma di pioggia. Ma il Sole tra un miliardo di anni sarà del 10% più caldo e conseguentemente gli strati alti dell'atmosfera diverranno più umidi e ricchi di acqua, che così potrà sfuggire. Un altro miliardo di anni e tutti gli oceani saranno asciutti. Perciò, se fate investimenti di lunghissimo termine, per allora si consiglia una villetta ai bordi del polo. Nord o sud non fa differenza. Più avanti, invece, bisognerà proprio pensare a cambiare pianeta. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E qui in studio con me Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Poco fa tu parlavi di rifiuti elettronici che finalmente si è iniziato a raccogliere e gran parte di queste milioni di tonnellate di rifiuti elettronici raccolte in tutto il mondo, noi parlavamo solo dell'Italia, beh, io credo che siano cellulari. Vedo però di fianco a te e lo saluto. Sì. Ciao Luca. Buonasera. Sì, è qui con noi Luca Tremolada, che è un amico e anche un collega della carta stampata e per la precisione scrive sull'inserto di ricerca e innovazione del Sole 24 Ore, Nova, che sta al piano di sopra, quindi per raggiungerci non ha fatto molta strada, ha fatto un piano di scale. Beh, però non ho preso l'ascensore, ho fatto le scale vere. Bravo, questo per l'efficienza energetica di cui parlavamo prima. Insieme questa sera, insieme a Luca, insieme a te Federico, faremo tanti chilometri perché cercheremo di fare virtualmente il giro del mondo per scoprire gli usi e i costumi del cellulare. E questo è proprio l'oggetto dell'articolo di Luca di qualche settimana fa, nel quale tu hai intervistato diversi esperti di questi usi differenziati del cellulare nel mondo. E in particolare un ricercatore inusuale. Sì, si chiama Ian Cipcese e fa un mestiere bellissimo perché è pagato dalla Nokia per girare il mondo e fotografare gli usi appunto e l'utilizzo del cellulare nelle varie popolazioni, dall'Africa fino al Giappone, passando per gli Stati Uniti. Perché questo? Perché lui fa parte di un centro di ricerca dove vogliono capire e studiare come costruire costruire il, diciamo, il cellulare universale. Che però sembrerebbe non esistere, visto che veramente gli usi e costumi sono i più vari. Sono completamente diversi. Infatti le storie che questo giovanissimo ricercatore ci ha raccontato sono straordinarie nella loro differenza. Possiamo incominciare con l'Africa? Sì, partiamo dall'Africa. Allora lì è stato interessante perché mi ha raccontato che è andato in Uganda, in un posto, diciamo, dimenticato da Dio e dagli uomini, perché non ci sono strade, non ci sono mezzi. Per l'energia elettrica loro devono trasportare delle batterie da camion per miglia e miglia, e lì chiaramente non c'è telefonia cellulare, c'è semplicemente una compagnia telefonica e un telefono. Addirittura intorno a questo telefono pubblico, diciamo, sono nati dei villaggi, e grazie a un sistema di carte prepagate, loro hanno inventato un metodo per una sorta di banca mobile. Ah, certo, per cui c'è un dispositivo e più carte a disposizione per gli utenti. E l'altra cosa interessante è che lui è andato là non tanto per studiare il sistema di pagamento, quanto per capire la privacy. Perché chiaramente un village phone per una popolazione significa che sono code sterminate. In realtà non sono code sterminate, perché gli africani non hanno il concetto del telefono come lo abbiamo noi, lo utilizzano solo per dirsi cose pratiche. Scusa Luca, com'è che funziona esattamente questo marchingegno? Che l'azienda che emette le carte prepagate, in un certo senso, fa da banca. Ossia, io arrivo, inserisco la carta prepagata nell'apparecchio che è pubblico, e una persona segna i minuti di connessione. Sulla base di questi minuti di connessione io ho un credito che verrà poi liquidato in altri modi, in altri tempi, esattamente come una banca. E quindi quel telefono di cui parlavi all'inizio, l'unico telefono è un cellulare. Sì, assolutamente un cellulare, anche di quelli, chiaramente, non neanche dei più moderni, chiaramente, è un antichissimo cellulare che però funziona per tutti, ecco. Qui poi deve fare un altro uso. Quest'uso che si fa in Uganda, tra l'altro, leggendo il tuo articolo, a me Federico è venuto in mente un altro aneddoto, un altro utilizzo in Burkina Faso, sempre in questi villaggi, dove addirittura hanno costituito dei banchetti, le donne del villaggio, dei banchetti dove ricaricare il telefono agli utenti che ne vogliono fare uso. Attraverso delle batterie a energia solare, vero Federico? Certo, perché quello che dicevi tu prima Luca, cioè che in questi continenti come tutto il Centro Africa per esempio non c'è l'energia elettrica in ogni casa, allora la rete, e poi tutte le reti classiche, anche le reti telefoniche non sono mai esistite. Adesso però con una batteria solare e un sistema, il sistema satellitare dei cellulari, finisce che il cellulare diventa qualcosa che bypassa il telefono classico, e quindi insomma con una batteria solare tu lo ricarichi e riesci a diffondersi questo strumento molto più avanzato del telefono classico, perché il sistema invece che noi abbiamo usato per decenni qui nessuno pensa più, con i costi che avrebbe, di implementarlo. Sì, tra l'altro le grandi compagnie telefoniche e i grandi produttori di cellulari stanno proprio utilizzando l'Africa e i paesi in via di sviluppo come laboratorio per capire non solo i metodi di pagamento, ma per capire anche di creare delle comunità, di creare delle nuove strutture. Stanno studiando dei prototipi sociali da portare probabilmente nei paesi più sviluppati, per cui c'è moltissima attenzione sull'utilizzo della telefonia mobile nei paesi in via di sviluppo. Tra l'altro, se non sbaglio, stanno proponendo dei prototipi a basso costo, però con le stesse caratteristiche e le stesse applicazioni di un nostro telefonino normale, quindi la fotocamera. Sì, anche perché si sono accorti che sono più creativi di noi, nel senso che noi siamo molto legati alle cosiddette feature, alla tecnologia all'interno del telefonino. Loro sono sicuramente più interessati all'utilizzo del telefonino in modi innovativi. Se siete d'accordo, io mi sposterei dal continente africano, ci spostiamo in Asia, che dite, in Mongolia, perché anche lì, Luca, tu scrivi nel tuo articolo che c'è un uso particolare del telefono, in particolare il numero telefonico viene assegnato a seconda dell'ordine gerarchico o comunque dell'estrazione sociale di chi lo utilizza. Della ricchezza, infatti è curioso, questa è un'iniziativa presa dalla compagnia telefonica, ce n'è solo una in Mongolia, e sostanzialmente gli studenti hanno non tanto una tariffa, hanno un loro numero di telefono che li distingue da casalingo e dall'imprenditore, il che è curioso, perché diventa in questo modo l'elenco telefonico uno strumento anche per capire, per censire un po' quella che è la popolazione, ma è anche uno strumento nelle mani di chi dà lavoro. Infatti mi raccontava Chip Chase che spesso gli studenti non vogliono dare il numero di telefono perché si capisce chi sono e poi quindi l'imprenditore può dargli meno soldi. Gli viene dato un contratto più basso, immagino. Alla faccia della privacy, tra l'altro, questo sistema non è tremendo. Esiste, certamente. Ma infatti, tra l'altro, la privacy è esattamente quello, il centro da cui, che oggi è l'attuale tema di ricerca di questo antropologo, cioè capire come la diversità tra i livelli di privacy in Italia, in Europa e nel mondo, perché tra l'altro già negli Stati Uniti, tra Stati Uniti e Europa c'è già una differenza oceanica. Negli Stati Uniti si compra e si vende privacy, ecco. Senti, l'Africa è molto diversa da come viviamo noi, nelle nostre città, lo stesso anche la Mongolia, però il Giappone, Tokyo, lì comunque c'è un altro modo di usare il cellulare. Sì, il Giappone diciamo che è definito la terra dell'internet in piedi, nel senso che l'internet è vissuto attraverso il cellulare. Nella metropolitana di Tokyo è difficile trovare persone con il portatile, quanto tutti quanti hanno questi, tra l'altro, cellulari a conchiglia, cioè là gli iPhone, i Nokia non vengono amati moltissimo, hanno tutti questi cellulari a conchiglia, dei mini computer, dei mini computer, e assolutamente mai nudi, sempre pieni di strass, orsacchiotti, gingilli personalizzati. Questo perché Mitsuko Ito, che è un'antropologa giapponese che ha scritto un manuale, una ricerca appunto sull'utilizzo dei dispositivi mobili in Giappone, in particolare a Tokyo, ci racconta che Keitai, che è il nome della parola con cui i giapponesi utilizzano per nominare il cellulare, significa qualcosa che si porta con sé. Beh. Ecco perché il cellulare in Giappone è qualcosa di estremamente personale, qualcosa che deve essere individuale, qualcosa che deve raccontare la propria personalità al mondo. Attenzione, non è solo un vezzo dei teenager del quartiere di Shibuya, questo è una caratteristica anche per gli uomini. Anche gli uomini hanno il gingillo, anche gli uomini hanno qualcosa da collegare. Beh, ognuno ci tiene a personalizzare insomma il proprio oggetto inseparabile, perché in Giappone veramente l'uso del cellulare ha raggiunto dei livelli altissimi, mi sembra siano 20 milioni i cellulari. Sì, noi siamo di più, cioè noi li battiamo ancora. Come numero pare proprio di sì, perché ne abbiamo tre a testa, però esatto. Loro col cellulare ormai ci fanno, pagano un sacco di biglietti, di cose. Sì, loro prendono le lattine, cioè hanno i distributori automatici, tutta Tokyo è piena di distributori automatici. Io devo dire che sono stato a Tokyo un mese fa e non ho visto nessuno comprare con il cellulare, però tutti i distributori automatici hanno questa possibilità. Beh, io ci proverei. Mi sembra impossibile che non abbiamo niente da dire sulla Cina. No, in realtà c'è moltissimo, scusa, nel senso che questo è un... Mi hanno raccontato chiaramente le informazioni che arrivano dalla Cina, è più complicato anche perché lo sviluppo tecnologico, la ricchezza è solo sulle coste. Però proprio perché solo sulle coste, che cosa è successo? Che il grande passaggio dalle campagne alle città è stato accompagnato da contadini che si indebitavano per acquistare il cellulare. Come non mai? Si è capito in un primo momento perché. Poi si è scoperto che il cellulare per loro era uno strumento di alfabetizzazione. Sono cominciati a girare dei piccoli manuali che insegnano ai cinesi che arrivano dalla campagna come parlare a una donna, come, quali sono i modi di parlare, di comunicare, non dico più colti, però più utilizzati più nelle corretti, città, più corretti, socievoli. Esatto. Per cui questo è interessantissimo, perché il cellulare è diventato uno strumento per imparare attraverso cosa? Attraverso gli SMS. Quindi attraverso un linguaggio semplice, conciso. Frasi brevi, adesso lo facciamo anche noi, poi alla fine della fiera. Però tu mi stai parlando di gente che ha un bassissimo livello di alfabetizzazione, o addirittura che proprio non sanno, e che invece spinti dal cellulare hanno imparato a... Si stanno integrando, stiamo parlando di di quelle masse che sono arrivate nelle città come Shanghai per costruire Shanghai, per costruire le grandi città, le grandi metropoli cinesi. Se non sbaglio, i grandi operatori di telefonia stanno proprio mettendo a punto dei modelli apposta per chi ha problemi proprio di alfabetizzazione. Infatti quello è un altro laboratorio che è studiato ed è monitorato attentamente. Sì, devo dire che qua gli studi di antropologia e di quant'altro si sprecano in questa situazione. Siamo alle soglie dell'antropologia cellulare, esatto. Sarà una nuova scienza di questo secolo. Che non si occuperà di cellule però. Grazie Luca e buon lavoro. A risentirci. Fa sempre una certa impressione che delle invenzioni che nascono per fare meglio la guerra finiscano per essere utili per salvare vite umane, ma il passaggio può starci perché ovviamente uno dei modi per fare meglio la guerra è avere meno vittime fra le proprie truppe. Veniamo alla notizia. Si stanno studiando dei mini dispositivi elettronici, tanto mini da poter essere collocati sul corpo di un insetto, un grillo per esempio. Dispositivi che possono segnalare la variazione di un certo comportamento, per esempio il battito delle ali, oppure nei grilli quello sfregamento delle zampe che produce il famoso verso grillesco. Come noto, i grilli in una certa zona ampia costituiscono una comunità sonora che si influenza reciprocamente, producendo sintonie e diversificazioni e anche momenti di silenzio totale, no? L'avrete notato. L'idea bellica questa è che la presenza di un gas aggressivo nell'ambiente può far variare il cri-cri, e infatti questo avviene, si è sperimentato, ma se questa variazione è trasmessa dal dispositivo elettronico, ecco che dopo essersi propagata può avvisare a distanza che in una certa zona ci sono degli agenti pericolosi biochimici. Il tutto però potrebbe essere commutato sulla percezione da parte degli insetti dell'odore prodotto dai corpi umani. Bene, gli insetti sono piccoli, possono infilarsi fra le macerie di un terremoto. Tirate voi la conclusione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Io non so bene come sia percepita dai nostri amici e amiche della Toscana quella storia per cui loro discenderebbero dagli Etruschi. Detto questo, la notizia che è arrivata è che questa discendenza non ci sarebbe. Secondo me la reazione di voi toscani sarà quella di sfoderare la vostra proverbiale ironia, quella per esempio del vernacoliere e dei suoi titoli micidiali. Comunque, ascoltate Maurizio Menis. I mitocondri non mentono, non è facile farli parlare, ma a quel punto il responso è difficilmente appellabile. Così uno studio condotto da ricercatori delle università di Ferrara, Firenze, Pisa, Venezia e Parma e pubblicato su Molecular Biology and Evolution ha smontato un vecchio refrain secondo cui i toscani di oggi sarebbero discendenti diretti degli Etruschi. I piccoli organelli cellulari, noti per essere le centrali elettriche delle cellule, sono anche un prezioso deposito di informazioni genetiche che, a differenza di quelle contenute nel DNA, non sono soggette al rimescolamento che avviene quando lo spermatozoo si unisce all'ovulo femminile. I mitocondri li ereditiamo così come sono dalla madre. Perciò l'unico modo in cui il loro patrimonio genetico può cambiare è per mutazione. E questa peculiarità ne fa degli oggetti di studio ideali per gli studiosi di genetica delle popolazioni. Guido Barbujani dell'Università di Ferrara si occupa appunto di tutto ciò ed è uno dei firmatari dello studio. Buonasera Barbujani. Buonasera. Dunque, io le chiedo subito di spiegarci intanto come avete fatto il confronto. Mi pare che si sia trattato di una simulazione piuttosto articolata. Sì, si è trattato soprattutto inizialmente di ottenere dalle ossa degli Etruschi e di alcune sepolture medievali toscane il DNA mitocondriale di cui appunto lei parlava. E poi abbiamo messo insieme un meccanismo di simulazione, cioè abbiamo cercato, non potendo viaggiare nel tempo, di ricostruire le condizioni in cui gli Etruschi si sono trovati a trasmettere il loro patrimonio genetico, per cercare di vedere se è legittimo considerare gli antenati dei toscani di oggi oppure no. Ecco, quindi avete ripercorso proprio una sorta di catena virtuale degli eventi possibili, di vari scenari. Certo, l'abbiamo fatto milioni di volte immaginando vari tipi di rapporti genealogici e alla fine è venuto fuori che non è possibile in nessun modo considerare che i toscani di adesso siano tutti quanti discendenti degli Etruschi. Forse qualcuno ce ne sarà, bisognerà cercare meglio, ma per il momento l'idea che i toscani discendono in blocco da antenati locali dell'età del bronzo, cioè dagli Etruschi, non è confermata dai dati. Ecco, benissimo. E qui allora arriviamo all'altra domanda, e cioè che fine hanno fatto gli Etruschi, soprattutto che fine ha fatto il loro patrimonio genetico. Io mi permetto di dare la versione popolare, mettiamola così, di questa vicenda. Numa ha inventato il calendario perché i romani ricordassero il compleanno delle mogli, pagassero i debiti alla scadenza, ricordassero quando era il tempo di seminare il campo. Tullo Ostilio lo adopera per intimare l'ultimatum ai nemici. A proposito, che fanno gli etruschi? Niente, che fanno, perché che fanno? Non fanno niente, che fanno? Fanno, che devono fanno? Fanno niente, fanno, stanno recumbenti a tavola, oppure scavano tombe. I morti. Non ti fidare. Au, tu pensa a far Dio, che fa la guerra. Se penso io. Va bene, questo era Tullo Ostilio, interpretato da Gigi Proietti in uno spettacolo che forse qualcuno dei nostri radioascoltatori avrà riconosciuto, I Sette Re di Roma. Bene, Barbogliani, questa è la risposta popolare, e arriviamo invece alla risposta scientifica. Cos'è successo? Si è diluito il patrimonio genetico etrusco? È scomparso? È migrato altrove? Ah, guardi, non è facile dirlo. Quello che possiamo dire adesso è appunto è che i toscani di adesso non possono pretendere di essere i discendenti diretti degli etruschi, ma probabilmente non è un problema che riguarda solo i toscani. Un po' nessuno oggi può pretendere di essere il discendente diretto di qualcuno che ha vissuto nello stesso territorio 2000 anni fa. È possibile che effettivamente con tutti i cambiamenti nella popolazione che si sono susseguiti per due millenni, molto sia cambiato in Toscana. Ed effettivamente il nostro studio ci dice che i toscani medievali sono gli antenati dei toscani attuali. Quindi chi sta fuori da questo schema sono appunto gli etruschi. Qualcosa è successo, diciamo, tra la sparizione della cultura etrusca, quando sono stati incorporati nello Stato romano nel 98 a.C., e l'anno 1000 in cui cominciano i nostri campioni medievali, che sono quelli sì in continuità genealogica con i toscani di adesso. Quindi è possibile che da qualche parte in Toscana, in qualche piccola località isolata, magari sia rimasto qualcosa dell'eredità etrusca. È possibile che sia arrivata così tanta gente da fuori negli ultimi due millenni che questa eredità ormai è molto difficile da trovare. È possibile anche, questo ce l'ha suggerito un archeologo americano che si chiama Robert Tycott, che in realtà quelli che abbiamo studiato noi, che erano reperti tutti provenienti da tombe con ricche decorazioni e che quindi potevano essere riconosciute come chiaramente etrusche, questo DNA non fosse il DNA degli etruschi in generale, ma magari di una piccola elite, quelli che potevano permettersi una tomba chic, per così dire, e se magari questo gruppo dominante, questo gruppo sociale più ricco, che poi probabilmente si incrociava, insomma, perché all'epoca Si è incrociato poco con gli altri, quello che noi non troviamo più non è tanto il DNA degli etruschi che non conosciamo, ma il DNA della classe egemone, del gruppo dominante. Ecco, diceva che però questo è un dato piuttosto frequente, insomma, ci sono delle popolazioni in giro invece da qualche parte nel mondo che hanno avuto una lunghissima continuità genetica e magari sono anche interessanti per varie ragioni. Sì, guardi, in realtà questo studio degli Etruschi è il terzo che viene fatto in Europa, ne abbiamo fatto un altro noi sui Sardi e poi è stato fatto uno studio sulla popolazione iberica da un gruppo di spagnoli. E quello che salta fuori è che alla fine è un po' vero una cosa, un po' vero l'altra. Cioè ogni tanto si trova qualche località isolata in cui ci sono delle tracce di un patrimonio genetico antico. In Sardegna, per esempio, nell'Ogliastra, che è nel sud-est, quasi metà delle persone di adesso hanno un DNA che era già presente nei Sardi nuragici. Ma basta spostarsi di 100 km a nord in Gallura, e in Gallura abbiamo una popolazione che ha le stesse affinità con i sardi nuragici di qualunque altro europeo. Campionare le persone in Gallura è come campionarli in Polonia o in Portogallo, il loro rapporto con i sardi nuragici è lo stesso. Quindi evidentemente anche sulla piccolissima scala geografica ci sono delle grandi differenze. Certo, nessuno può immaginarsi di essere geneticamente legato a una certa terra, perché in realtà le popolazioni umane si sono sempre scambiate. È la storia dell'umanità questa, direi, proprio. Certo, è la nostra storia. Ecco, senta, un'ultima domanda. Se non sbaglio, questo studio ha delle implicazioni in qualche modo anche riguardo all'origine degli stessi etruschi, è così? Perché ci sono due ipotesi. Fino dall'epoca di Erodoto sosteneva che gli etruschi erano di origine anatolica, quindi nell'attuale Turchia, mentre Dionisio di Alicarnasso sosteneva che invece era una popolazione autoctona. Noi speravamo di trovare qualche dato che confermasse l'una o l'altra cosa. In realtà quello che ci sembra di vedere è che gli etruschi avevano caratteristiche molto simili a quelle degli italiani di adesso, quindi non c'è motivo di ritenere che venissero da fuori, ma avevano anche qualcosa di simile agli attuali turchi, e quindi è possibile che qualche traffico, qualche scambio di geni ci sia stato nel corso della storia. Direi però che nessun archeologo oggi accetterebbe l'idea di Erodoto che gli etruschi siano venuti con armi e bagagli dal Medio Oriente. Gli archeologi non credono a queste grandissime migrazioni. Va bene, grazie Barbogliani. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Abbiamo portato in trasmissione negli ultimi tempi qualche esperienza che nasce dall'area Science Park di Trieste, un centro che è indubbiamente incubatore di diverse esperienze di aziende molto innovative. Questa sera incontriamo la Esteco e in particolare Carlo Poloni. Buonasera Poloni. Buonasera. Ingegnere, uno dei soci di questa azienda. Allora, voi siete specializzati nel software per la progettazione. Le dico questo, invece di parlarne in generale, proviamo a vedere un esempio molto concreto di vostra applicazione e, per come ci siamo preparati a questa intervista, mi pare che un caso molto interessante è quello delle prestazioni di automobili, magari anche di automobili da corsa, insomma, automobili che sono sollecitate e devono dare parecchie prestazioni elevate. In un caso come questo, che cosa succede quando il vostro software interviene come ausilio della progettazione? Ma diciamo che sostanzialmente esistono dei modelli di simulazione della vettura. Possiamo ad esempio prendere ad esempio quello che può essere un videogioco, anche se si tratta di qualcosa di ben più serio. E quello strumento dà dei valori al nostro software di progettazione che poi suggerisce al progettista qual è il setup ottimale, ad esempio, di una sospensione per un determinato circuito. Cioè, mi scusi, per esempio, c'è un software di simulazione che lei giustamente dice possiamo pensare a un videogioco, ma insomma sono cose molto più sofisticate, molto più articolate, ed è già una simulazione, no? Cioè è già un oggetto virtuale. A questo si può agganciare un software che riceve da questo strumento delle indicazioni, come per esempio l'andamento delle sospensioni su un certo percorso. Sì, e diciamo sulla base, che so, la cosa più banale a cui pensare è quello, io ho un pilota virtuale che guida questa vettura su un assegnato circuito, devo assegnare, che ne so, un setup aerodinamico piuttosto che la rigidità delle molle della sospensione, per cui il veicolo risponde al meglio in quella determinata, in quel contesto. Il nostro strumento consente di fare queste operazioni in modo pressoché automatico, lasciando al progettista il compito poi di validare e scegliere la soluzione effettivamente migliore, ma avendo scremato molte altre alternative poco promettenti. Ecco, la rapidità è essenziale, è una componente essenziale? In molte situazioni sì, perché chiaramente la risposta, ad esempio se facciamo proprio l'esempio della vettura su un circuito, i dati vengono raccolti alla fine della prima sessione di prove, si fanno durante la giornata, diciamo un po' di ore a disposizione, tipicamente fra 10 e 12 ore, le simulazioni che servono per arrivare il giorno dopo ad avere la configurazione nuova da effettivamente poi sottoporre a test. Insomma. Proprio facendo un salto di 180 gradi, andando in tutt'altra direzione, so che questo vostro software può invece essere estremamente utile per progettare un oggetto che è molto diverso, purtroppo, per chi lo deve usare, e cioè un polmone artificiale. Siamo nelle condizioni in cui questi oggetti non sono usati da persone che praticamente non hanno autonomia respiratoria. Lì com'è che avviene? Come mai funziona anche in un caso come questo? Diciamo che una volta costruito, anche in questo caso, un modello numerico del fenomeno in esame, quindi del comportamento in questo caso del polmone artificiale, quindi con la sua fluidodinamica e con la chimica relativa al fatto di dover ossigenare il sangue, uno può pensare di usare Frontier, il nostro prodotto, per variare dei parametri della geometria e i parametri di funzionamento di questa ipotesi sostanzialmente, rendendola compatibile con il corpo umano. Diciamo, per noi la similitudine sta nell'avere il componente che viene comunque simulato e che quindi possiamo misurare in qualche modo. E lì il problema è avere un'efficienza costante, perché certo non deve mai fermarsi, ma anche essere, come dire, rispondente al fatto che il paziente ha poca energia, insomma, no? Quindi deve essere... Certamente, quindi è necessario consumare poco e quindi essere compatibile con un quantitativo di energia fornibile da una pila o da qualcosa di ridotte dimensioni, essere di ridotte dimensioni per essere appunto impiantabile e utilizzare materiali biocompatibili, quindi i vincoli al progetto e le prestazioni richieste sono sicuramente di prima classe. Bene, software per progettazione nei campi di costruzione di strumenti più diversi fra loro. La Esteco di Trieste, Carlo Poloni, grazie per questa conversazione e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Esattamente in queste ore, 64 anni fa, fra il 7 e l'8 agosto del 1945, un messaggio aveva già fatto il giro del mondo, arrivando nelle case attraverso le radio, nelle case integre degli americani, sebbene il paese fosse stato duramente colpito dalle molte vittime causate dalla Seconda Guerra Mondiale. Nelle case rimaste tali e in molti luoghi pubblici che diffondevano le radio, di un'Europa invece duramente colpita dal conflitto anche tra i civili, anche nelle città. Questo messaggio, ascoltiamolo, era la voce del presidente degli Stati Uniti, Harry Truman. Sentiamo. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. L'abbiamo usata per abbreviare l'agonia della guerra, per salvare la vita di migliaia e migliaia di giovani americani. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. E continueremo ad usarla fino a quando avremo completamente distrutto la capacità del Giappone di continuare la guerra. Il 6 agosto 1945, infatti, la bomba su Hiroshima, il 9 agosto quella su Nagasaki, e Harry Truman subito dopo fece appunto questo comunicato. A queste vicende, nei modi più diversi, è collegata la storia di un piccolo gruppo di scienziati geniali, e questa storia inizia verso la fine degli anni 20 del secolo scorso. Un libro appena uscito in Italia la racconta, lo ha scritto Gino Segre, che è qui con noi stasera. Buonasera Segre. Buonasera a lei. Il libro è Faust a Copenaghen, edito dal Saggiatore, e credo che già dal suo buonasera Segre abbiamo capito che lei parla bene l'italiano, ma con un forte accento anglosassone. Lei vive e lavora negli Stati Uniti da sempre. Beh, sono nato in Italia e poi ho fatto la scuola da ragazzo in Italia, ma ormai sono più di 40 anni che sono negli Stati Uniti, e purtroppo questo accento anglosassone l'ho acquisito lentamente. Sì. Lei porta un cognome Segre che ci rimanda a Emilio Segre, anche lei è fisico, no? Sì, sono un professore qui di fisica teorica. Sì, Emilio infatti era mio zio. Anche lui era un fisico e faceva parte di questo piccolo gruppo di cui stiamo per parlare. Cominciamo con un po' di nomi di questo manipolo, insomma, di geniali scienziati. Beh, il gruppo di cui ho scritto questo libro, Faust a Copenaghen, parla di Bohr, Pauli, Heisenberg, e Max Born, e anche poi di Fermi e il gruppo attorno a lui. Sì. E infatti il libro parla di una riunione di una quarantina di persone all'istituto di Bohr. Bohr, che era un po' il padre intellettuale di questo gruppo di giovani, avevano 25-30 anni al massimo in quel periodo. Bohr aveva 20 anni in più e lui li guidava in un certo senso. Si erano riuniti attorno a Bohr per questa settimana di discussione un gruppo di giovani, Pauli, Heisenberg, Dirac e anche almeno una donna, la Lise Meitner, che era stata proprio quella che poi, 6 o 7 anni dopo, sarà la prima a intravedere la possibilità della fissione nucleare. Senta, lei ha parlato, mi scusi, di una settimana particolare di discussioni? Sì, ogni anno Bohr riuniva attorno a sé, a Copenaghen, un gruppo di giovani proprio per una discussione libera, di cercare di determinare quali erano i problemi più interessanti, cosa dovevano pensare, cosa dovevano fare come esperimenti. Ecco, forse sarà bene ricordare che questi giovani, e senz'altro in quelle settimane, stavano discutendo dei fondamenti della fisica del nucleo, della meccanica quantistica, e quindi stavano creando un intero nuovo universo scientifico. Senz'altro, perché è infatti il loro mondo scientifico, come lei dice bene, era stato cambiato proprio un mese prima di questo incontro con la scoperta del neutrone. Però lei allora in questo momento mi pare che sta parlando di un anno particolare. Sì, il anno era il 1932. Ecco. E in quest'anno, che poi è stato chiamato l'anno Mirabilis proprio per la fisica nucleare, perché in quest'anno è stato scoperto il neutrone e anche è stato scoperto il ciclotrone, che era proprio la prima macchina per fare questi esperimenti di fisica nucleare, come vediamo ora al CERN, a Ginevra, dove si spendono miliardi di euro per fare queste grandissime macchine. Nel 1932 era stata scoperta la prima, proprio un attrezzo che stava su un tavolino. Se si vedono le foto di quegli anni, di questi scienziati che lavoravano con il nucleo dell'atomo, lavoravano quindi con infinitamente piccolo, fa impressione perché sembrano delle botteghe di meccanici d'auto, no? E come diceva giustamente lei, il ciclotrone sembra proprio un marchingegno molto rozzo, molto grezzo. Ecco, però, senta Segre, lei parla del 1932, questi ragazzi, giovani scienziati, hanno anche un altro polo di riferimento, che è la Germania, in particolare Göttingen. Certo, Göttingen era il posto dove una gran parte di loro aveva studiato. In un certo senso andavano prima a Göttingen a studiare con Max Born, che era il grande maestro, e dopo andavano per un anno o due a Copenaghen per una specie di corso di perfezionamento. E questo era un po' il percorso che facevano tutti, insomma, da tutto il mondo. Dall'Italia, per esempio, Fermi è andato a Göttingen. Dagli Stati Uniti, Oppenheimer era andato a Göttingen per scrivere la sua tesi. Era un mondo più semplice, infatti, era un gruppo di qualche dozzina di fisici. Era un gruppo piccolo che si conoscevano uno con l'altro, erano amici, andavano a nuotare insieme, giocavano a ping pong magari. Ecco, però questo gruppo, siamo nel 1932, sta per arrivare Hitler al potere, ci arriva, questo gruppo e queste amicizie sono travolte dal fantasma che sta arrivando in tutto il mondo della Seconda Guerra Mondiale. Lei ha già citato Oppenheimer, lei ha già citato Fermi, dall'altra parte c'è Heisenberg, alcuni restano nella Germania nazista, altri nell'arco poi di 7-8 anni si trovano coinvolti appunto nella vicenda della costruzione della bomba atomica, il progetto Manhattan, no? Certo, anzi devo dire proprio si vede Bohr e Heisenberg che erano stati, avevano lavorato insieme proprio a costruire la meccanica quantistica nel 1927 e Bohr era quasi un padre per Heisenberg. Heisenberg. Poi invece si sono trovati, Bohr è andato a Los Alamos a lavorare alla Manhattan Project e Heisenberg a dirigere proprio la costruzione della bomba atomica in Germania. Perciò questi due che erano vicinissimi si sono trovati in un certo senso a tentare di ammazzare l'altro proprio, perché non ammazzare direttamente ma per costruire delle armi. Invece il 1932 mi è interessato particolarmente perché era il momento in cui, proprio l'ultimo momento in cui erano tutti insieme. Senza preoccupazioni né per la scienza né per il loro benessere, per il loro destino. Cioè si vede là che loro non riescono a intravedere cosa gli succederà e naturalmente non lo possono né nella scienza né nel mondo che li circonda. Le dirò, Segre, che purtroppo furono pochi quelli che riuscirono a vedere questo destino nerissimo che si stava delineando. Non furono solo questi ragazzi. Sì. E le chiedo qual è la sua opinione, se ne è discusso veramente tanto, però senza arrivare a conclusioni precise, qual è la sua opinione sul fatto che Heisenberg e i tedeschi fossero effettivamente vicini a costruire una bomba? Credo che non erano vicini a arrivare proprio a una bomba, non avevano né i mezzi industriali per fare la bomba e non avevano anche non erano riusciti a mettere insieme l'equipaggiamento né intellettuale né industriale per fare la bomba. Forse sarà bene ricordare che il progetto americano è una cosa impressionante, cioè ci sono circa 100.000 persone coinvolte con installazioni e aziende enormi per fare la bomba. Certo, la Germania allora, sotto tutti i bombardamenti, non era in grado, credo minimamente, di fare questo. È questo che lei dice? Sì. Bisogna dire che per molti di questi ragazzi, che poi ormai erano diventati uomini e scienziati, la spinta a fare la bomba era veramente il terrore che Hitler l'avesse per primo. Poi dopo, quando si capì che le cose non stavano così, molti di loro erano contrari al che la bomba, insomma, fosse immediatamente applicata, che fosse a disposizione anche di un solo paese. Sì, difatti, proprio negli anni successivi al 1945, molti di loro lavorarono proprio per cercare di evitare che queste armi nucleari fossero adoperate nel futuro. E invece, fortunatamente, non ci sono state. Dopo quelle due esplosioni non ci fu altro, ma certo rimane la spada di Damocle. Ecco. Certo, e difatti anche in questi momenti vediamo che gli Stati Uniti e i russi hanno cominciato le loro discussioni e sono ottimisti che ci saranno delle riduzioni nell'arsenale. Sì, e qui hanno detto che ridurranno di un terzo e qui, come sempre, è un po' con amarezza, ma ironicamente, si dice: va bene, hanno ridotto di un terzo, quindi abbiamo solo due possibilità, sì, di morire, non più tre. E questo è un dato. Certo che per questi ragazzi che avevano incominciato a studiare la fisica del nucleo e che avevano un atteggiamento di scoperta e di grande tensione emotiva, l'idea poi che questa cosa si trasformasse invece in un ordigno nucleare, beh, insomma, questo era un disegno ben diverso da quello da cui erano partiti. Ricordo il titolo di questo libro, allora, Faust a Copenaghen. Ecco, Segre, Faust a Copenaghen è un titolo che si riferisce a una piccola simpatica vicenda legata a un'esecuzione tutta strana del Faust che questo gruppo di giovani scienziati fece, no? Sì, appunto, era un po' una farsa, una macchietta. Alla fine di questa riunione era una presa in giro proprio dei giovanissimi, fecero questa macchietta per prendere in giro un po' i vecchi che poi avevano 30 anni. I nonni avevano 30 anni per loro, sì. I padri avevano, i nonni avevano 40 anni, diciamo. Okay. E c'era questa specie di pantomima intorno al Faust di Goethe. Però, insomma, io ricordo invece che il libro, al di là di questa parte che è dedicata appunto a questa pièce teatrale, in realtà il libro è appunto una storia ampia intorno a questi personaggi e alle cose che vi abbiamo raccontato. Grazie Gino Segre, buon lavoro. Grazie a lei. Buona serata, ascoltatori e ascoltatrici. Möbius vi ha raccontato quello che doveva raccontarvi. Vi ricordo che siamo in agosto, mese nel quale la nostra trasmissione va in onda anche dal lunedì al venerdì alle 16. Buona serata ancora. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.